fino a qualche anno fa le crescite spaventose, incredibili della pubblicità online forse erano dettate dal fatto che questo era un mercato molto giovane e quindi di solito questi sono mercati che crescono molto rapidamente. Oggi parliamo di un mercato già maturo, che cresce ancora e di quanto cresce? Beh, dici bene, un mercato ormai maturo, quasi consolidato, anche se in realtà le aspettative sono di una crescita ancora importante nei prossimi anni. Un mercato che nell'arco degli ultimi due anni, quindi parlo del 2006 e il 2007, con gli ultimi dati che abbiamo rilevato pochissimo tempo fa, cresce del 40% anno su anno. Questo è un dato assolutamente rilevante se lo compariamo con la crescita dell'intero mercato della pubblicità, quindi tenendo conto di tutti i mezzi di comunicazione, dalla televisione alla stampa, alla radio e così via. L'ambito, diciamo, di crescita del totale comparto pubblicità è del 3%. 3% chiusura 2007 contro, ripeto, un 40% della parte legata a internet, più gli altri media che vanno a comporre la torta della comunicazione pubblicitaria interattiva. Faccio riferimento a dei veicoli o dei media, come li vogliamo chiamare, come ad esempio il mobile advertising, che per quanto in questo momento abbia ancora dei valori assoluti relativamente marginali, ma ad esempio è uno di quei mezzi che tutti noi addetti ai lavori ci aspettiamo avrà delle crescite importantissime nei prossimi anni.